Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Correre sull'acqua. È possibile. Calcolare quando una mucca sdraiata si mette a quattro zampe. È tutta una questione di statistica. Di rottatori di aerei imbustati, come salami. Li buttano giù e la polizia li raccoglie. Oh, mangiare un topo ragno per vedere l'effetto che fa. Posso dirlo? Sì. Basta vedere la pupù. Eccoci qua, benvenuti a Mebius e adesso i titoli e poi iniziamo con gli Ig Nobel. Ci risiamo, torna la 23esima edizione dei premi Ig Nobel, le ricerche che prima fanno ridere, poi fanno pensare. Un grande scienziato con una vita da persona per bene ma molto misteriosa. Si festeggia il centenario della nascita di Bruno Pontecorvo. 330 chilometri, 150 ore di corsa, 24.000 metri di dislivello, 700 partecipanti. I numeri di una delle corse più dure del mondo si conclude in questi giorni in Val d'Aosta. Prima dell'invenzione dell'altoparlante, come hanno fatto i grandi condottieri e i politici a convincere intere armate e popoli? La domanda di questa settimana ci arriva da Vanni. Tornano come ogni anno, puntualissimi, poco prima dei prestigiosi premi Nobel, giunti ormai alla 23esima edizione. Sono gli Ig Nobel, gli ignobili Nobel, che premiano le ricerche internazionali più buffe, quelle, questo è lo slogan della manifestazione, che prima fanno ridere e poi fanno pensare. Ormai lo sappiamo, la premiazione è una lunga carrellata di scherzi, di presentazioni dal tono ironico e la bravura, il valore del ricercatore insignito del premio viene censito da un lancio di aeroplanini. Ecco. Carta, sì. Ecco. Però, la presentazione invece lunga, barbosa di un ricercatore invece viene interrotta da una bambina che puntualmente sale sul palco e dice: Please stop, I'm bored. Let me say finish. Please stop. Thank you with all my heart. Ecco, dice proprio: basta, smettila, sono annoiata. E l'unica novità di quest'anno, ecco, questo va specificato perché dobbiamo dirlo, è che i ricercatori hanno ricevuto anche un premio in denaro. Oh. Precisamente 10 trilioni di dollari dello Zimbabwe, pari a circa 4 dollari statunitensi. Come i Nobel veri, anche questi premi che sono stati consegnati 2 giorni fa alla Howard University sono divisi per disciplina. E allora a questo punto, rullo di tamburi. Snoccioliamo i vincitori, attenzione, c'è anche un italiano. Premio Ig Nobel della medicina va ad un gruppo cino-giapponese che ha testato gli effetti della musica lirica. Mi sembra Giuseppe Verdi, se non sbaglio. Su dei cardiopatici, vale a dire topi che hanno subito il trapianto di cuore. Un team internazionale si aggiudica l'Ig Nobel per la psicologia per aver confermato empiricamente che gli ubriachi si considerano persone attraenti. Quest'anno, eccezionalmente, biologia e astronomia sono state raggruppate in un unico premio, che va a ricercatori, pensa, di 3 continenti diversi, Australia, Europa e Africa. Hanno scoperto che gli scarabei stercorari si orientano usando la Via Lattea. E gli ascoltatori più attenti di Mebius si ricorderanno che a suo tempo abbiamo parlato di questa ricerca. Premio davvero speciale all'ingegneria per la sicurezza. L'ingegnere americano ormai scomparso Gustano Pizzo, gli Ig Nobel si possono assegnare postumi diversamente dai Nobel veri, ha brevettato Pizzo un sistema elettromeccanico per catturare i dirottatori di aerei. Il sistema impacchetterebbe malviventi come salami e li espellerebbe dall'aeromobile automaticamente attraverso una porta speciale, ovviamente muniti di paracadute, per assicurare alle forze dell'ordine che sono lì sotto sulla terra. Ig Nobel della fisica tricolore, il milanese Alberto Minetti, che faremo in modo di avere settimana prossima qui con noi, si aggiudica insieme a dei colleghi romani il premio per aver dimostrato che gli esseri umani, attenzione, potrebbero correre sul pelo dell'acqua se si trovassero sulla luna però. E beh, insomma, perché no? Speriamo nel futuro. Ricercatori giapponesi invece si aggiudicano il premio per la chimica. Hanno dimostrato che il processo biochimico per il quale le cipolle ci fanno piangere è molto più complicato di quanto si pensasse in precedenza. Beh, questa è una roba seria. È serissima. Senti com'è serio il premio per l'archeologia, che è stato insignito a due ricercatori, uno americano e uno canadese, che, attenzione, hanno bollito un toporagno morto, lo hanno ingerito senza masticarlo e lo hanno espulso nel modo tradizionale. Dopodiché hanno esaminato il risultato, chiamiamolo così, dimostrando quali ossa resistono alla digestione umana. Conoscenza spettacolare e importantissima. Si aggiudica l'Ig Nobel per la pace il presidente della Bielorussia, Lukashenko, per aver vietato di applaudire in pubblico. Un riconoscimento speciale alla polizia di Stato bielorussa per aver arrestato un uomo senza un braccio accusato di aver applaudito in pubblico. Un grande mistero. Ecco, Ig Nobel per le probabilità, eppure le categorie sono bizzarre, vabbè, l'avevamo detto, per due scoperte dello stesso gruppo di ricerca. La prima, la probabilità che una mucca sdraiata sull'erba si alzi è più alta se in quella posizione è lì da lungo tempo. Ma pensa, chi l'avrebbe detto? E invece la seconda, non è facile predire quando la suddetta mucca, una volta alzata, tornerà sdraiata. E invece sarebbe importante. Infine, dulcis in fundo, un premio di spessore, sì, Ig Nobel per la salute pubblica ai ricercatori del SIAM per aver messo a punto una tecnica medica per una patologia legata all'amputazione chirurgica del pene. Ecco qua, i ricercatori però specificano che la stessa tecnica non vale, attenzione, non vale se il pene amputato è stato parzialmente mangiato da una papera, che sappiamo appunto essere un fatto molto diffuso. Ma no. E per quest'anno è tutto. È tutto qua. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. A me sembra impossibile. Anche a me. Eppure, però devo dire che anche la nostra è stata un'impresa, oltre che la loro. Perché montagna, come le trovi? Difficile, difficilissimo mettersi in contatto con loro, perché stanno appunto tentando l'impresa. Chi sono? Sono i 700 partecipanti al Tour de Jean. Non so se la pronuncia è corretta. Ti do soltanto due numeri e poi li salutiamo subito. Allora, 330 chilometri intanto, in massimo 150 ore. Sì. Il dislivello, stai attento, 24.000 metri di dislivello. Perché c'è un grande su e giù. Esatto, e come dicevamo sono 700 i partecipanti. Si è tenuto durante questa settimana, è una delle corse, delle prove più dure del mondo, ed è appunto il Giro dei Giganti, perché ci sono 700 partecipanti che fanno il giro delle quattro cime della Val d'Aosta, le quattro cime a 4.000 metri. Vanno su, correndo praticamente. Sì, ecco. Vengono giù, poi arrivano su. Raccontare, ce lo facciamo spiegare. Da chi sta partecipando alla gara e da chi anche è lì in veste anche di psicologo dello sport presso l'Università di Verona ed è anche ultramaratoneta. Benvenuto Pietro Trabucchi. Sì, buongiorno. Buongiorno Trabucchi. Trovati, è stato faticoso trovarsi, ma ce l'abbiamo fatta, perché molto spesso il telefono non prende. Ma dove siete adesso? A che altezza? Adesso siamo al Col Chalebi, che è 2600 metri, e quindi è una pausa. Alla fine della gara circa, credo, più o meno 70 chilometri, quindi... Senta Trabucchi, però lei deve spiegare ai nostri ascoltatori, questi 700 qui corrono con pantaloncini corti e scarpe da ginnastica, magari un po' speciali? E calzettoni, io li ho visti. E calzettoni, è così? Ma in realtà si è visto di tutto, cose troppo discinte, non vanno bene, non per un fatto morale, ma per un fatto che ci sono già stati in questa edizione delle persone che sono finiti in ospedale con una ipotermia molto severa. Sì, perché ecco, ci dica ad esempio... La può scendere, se arriva alla bufera, anche meno 5, meno 7 gradi, il corpo è stanco, l'organismo è defedato, e quindi, per esempio, una cosa che anche soggettivamente io noto, mi aiuta a capire che, per esempio, sto dando troppo, è che sento molto più freddo del normale. Già. Non ho energie da spendere per la termoregolazione, perché la termoregolazione diventa una cosa in più, sì, che non è necessaria immediatamente. Un compito secondario. Ci dico un'altra cosa però, Trabucchi. Sì. Quando noi pensiamo ai 4.000 metri, pensiamo a qualcosa che fa già parte della scalata, mentre invece voi andate su, quasi sembra una maratona, cioè correndo, ma senza corde, senza niente. Vuol dire che... No, però... Un attimo, perché poi dopo non vorrei che si ingenerasse nell'ascoltatore un equivoco. La gara si chiama, utilizzando un nome che è un misto di di patois, quindi di dialetto della Val d'Aosta, e un misto di francese, Thor, quindi il giro des géants, dei giganti, ma è il giro nel senso che i massicci principali della Val d'Aosta, dei 4000, Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino e Grand Combin, vengono come dire percorsi, ma non vengono saliti, cioè non si va in cima al Monte Bianco, cioè la parte di arrampicata, diciamo, finale alla vetta, quella non la fate, perché no, sarebbe chiaramente troppo. La gara supera più di 20 colli che arrivano alla quota comunque considerevole di 3300 metri. Ok. Quindi... ecco, purtroppo la gara quest'anno è stata resa anche molto nota, celebre, purtroppo dalla morte del corridore, dell'atleta cinese, che è avvenuta praticamente nel primo giorno di gara. Lì purtroppo le condizioni avverse sono state quelle che hanno causato... provocato, sì, perché lì era sera, se non sbaglio pioveva, ed è caduto e ha picchiato la testa. Però ecco, tutte queste cose, le condizioni atmosferiche, il terreno, rendono questa gara veramente dura per il corpo. Proprio questa cosa la sta studiando. Sì. Sostanzialmente portiamo avanti questo discorso che ormai viene molto così strombazzato in giro, della unità mente-corpo, però in effetti applicarlo alla prestazione non è facile. La mia esperienza, adesso sono qua in veste di corridore, infatti tra l'altro le cose dell'incidente, sinceramente sappiamo poco della dinamica, nel senso che chiaramente quando abbiamo incontrato sul percorso amici, organizzatori, c'è stato riferito, però io non ho potuto leggere i giornali. Certo. Comunque, il problema di questa gara fin dall'inizio era stato cioè quando la regione ha deciso di organizzarla, chi l'ha finanziata si è posto il problema di dire: vabbè, noi possiamo finanziare una gara del genere, sicuramente fa conoscere in tutto il mondo la Val d'Aosta, però gli esseri umani sono in grado di fare una roba del genere? Guardate che 5 anni fa questa cosa non era per niente scontata. Ecco. Oggi, tanta gente, madri di famiglia, professionisti, persone anche di mezza età come me, la fanno e la concludono, ma 5 anni fa nessuno ci avrebbe scommesso. Allora, noi avevamo fatto l'edizione zero con la persona che un po' l'ha inventata, l'organizzatrice, che è Alessandra Nicoletti, e abbiamo deciso di testare su 4 cavie che erano non dei campioni mondiali di qualche disciplina, ma proprio delle persone molto allenate a andare in montagna, ma del tutto normali, che un anno prima, nelle stesse date, con le stesse condizioni organizzative, dovevano farlo. Mm-hmm. E abbiamo fatto anche dei lavori di tipo scientifico su questa cosa, cioè capire durante la gara prelievi del sangue, misurazioni, non so quanto per esempio si poteva non dormire, per capire se era umanamente fattibile. Sì, se era umanamente fattibile, chiaro, perché nessuno, cioè non c'erano dei precedenti, no? Quindi giustamente la regione diceva: noi possiamo, rischiamo anche di fare una figura da cioccolatai, mettiamo sì, in piedi, certo, una roba che costa rischiosa centinaia di migliaia di euro, ma poi dopo è una figuraccia perché è un autogol, sì, no? E cosa, è venuto fuori alla fine da quelle ricerche? Che era fattibile obiettivamente? È venuto fuori che era fattibile, cioè nel senso che da lì è cominciato questo studio che noi poi approfondiamo di anno in anno a vari livelli, cioè sia sugli aspetti cognitivi, quindi più psicologici, sugli aspetti... Quest'anno, per esempio, abbiamo molto approfondito gli aspetti cerebrali, gli aspetti metabolici, eccetera. E quello che viene fuori, che secondo me è interessante per tutti, perché poi magari chi ascolta, se qualcuno dice che questi sono matti e cambia canale, chi sa perché farlo, certo. È così. Mm. No, ma in realtà la notizia buona è quella che si scopre che gli esseri umani, qualsiasi essere umano, ha delle potenzialità enormi di adattamento allo stress e alle difficoltà, che non normalmente non si immagina, non pensiamo, no? Cioè noi di fronte a un problema di tipo fisico o di tipo sociale, eccetera, però tendiamo a vederlo come insormontabile, e queste cose dimostrano che in realtà la nostra percezione è falsata. Possiamo fare, se chiaramente ci alleniamo, ci prepariamo, ci impegniamo, siamo motivati a farlo, però possiamo raggiungere dei traguardi che uno non penserebbe. Lei è anche ultramaratoneta, quindi insomma la predisposizione ce l'ha tutta, però si dice che è anche molto questione di testa, di cervello. Lei ce lo conferma, tanta parte la fa la testa in questa dura gara, perché dura 150 ore e le fasi di sonno sono proprio ridotte al minimo, okay, un paio d'ore a notte. Fa tantissimo la testa, nel senso che fin dall'inizio vanno dati per scontati sofferenza, dolore, fatica, cioè uno non può pensare diventare anche il più allenato del mondo, viene qui, comunque ognuno va al suo limite e quindi ha già la tentazione dopo due ore di mollare. Ecco, ma dal suo punto di vista, voi, lei è tra virgolette anche cavia del suo stesso esperimento e ci sono altri atleti che si sono resi disponibili. Che tipo di parametri misurate all'inizio della gara, durante e dopo? Cioè, come valutate il cambiamento sia fisico che psicologico dell'atleta? Diciamo che di anno in anno abbiamo approfondito degli aspetti diversi. Quest'anno, per esempio, sul discorso cervello facciamo degli elettroencefalogrammi tipo molto accurato prima, a metà e dopo la gara. L'elettroencefalografia è collegata al fatto che il soggetto deve rispondere a un test cognitivo. Test cognitivo vuol dire semplicemente un test sulle capacità di attenzione e di concentrazione. E prima della gara immagino siano abbastanza alte, ma dopo la gara? Sì, lo vedremo. Cioè, questo io in questo momento non glielo so dire. Certo. Posso dire che è drammatico nel mio caso la differenza tra il pre e quello fatto in età. E il durante? Devo addirittura addormentarmi durante il test. Infatti io leggevo proprio uno dei suoi rapporti delle scorsi anni e lei diceva proprio questa cosa, che alcuni atleti durante la gara, mentre facevate le analisi di cui lei stava raccontando, si addormentavano anche magari su una gamba sola o mentre erano seduti sulla seggiola che rispondevano a delle domande. Perché lì che cosa subentra? Beh, perché vabbè, oltre alla stanchezza è un bisogno fondamentale. Noi non ci rendiamo conto della tortura che sia obbligarsi a non dormire, perché normalmente quando a una certa ora spegniamo la luce e dormiamo, ma una persona che è costretta a camminare magari con un sonno arretrato più a cui si somma la stanchezza, è una sofferenza fortissima, perché è proprio la tentazione che ti viene di buttarti a terra, ti addormenteresti subito. Io ho visto persone dormire su un sasso un po' anche appuntito, no? Cioè così non si accorgevano neanche. È interessante perché, come dire, il nostro cervello richiede il sonno, però noi ci sono parti del cervello che si possono, prendete questo termine tra virgolette, allenare a non dormire, anzi che obbligano il resto della macchina a rimanere accesa. Senta Trabucchi, c'è una domanda ovvia, insomma, che immagino lei se la deve aspettare. Questo tipo di esperimenti su condizioni estreme si sa che hanno notoriamente una loro utilità dal punto di vista dell'addestramento militare, sono anche esperimenti che sono stati fatti e si fanno regolarmente, però non direi con questa durezza per gli astronauti. Però le chiedo, non è possibile che da una prestazione di questo genere si abbia qualche danno permanente? Cioè non è qualcosa che segna in qualche modo un po' definitivamente un corpo? Ho una visione molto positiva delle capacità che discendono da allenarsi e dal frequentare questo tipo di prestazioni. Cioè credo che in realtà le persone migliorino, non peggiorino, questo da un punto di vista di cerebrale, ma anche perché poi diciamo connessi. Il cervello è quello che determina i comportamenti e gli atteggiamenti, quindi di comportamenti e atteggiamenti nel senso di capacità di affrontare i problemi, di reggere le frustrazioni, di sicurezza in se stessi. Cioè vedo che le persone crescono facendo questo tipo di, mettendosi di fronte a dei problemi dovendo risolvere. Bene, Trabucchi, allora mancano poche ore alla fine della gara, intanto in bocca al lupo. Io posso dire che ho un amico che sta partecipando, forza Pippo, che sta forse arrivando Pippo in queste ore al traguardo. Grazie Trabucchi, io direi che potremmo risentirlo magari fra un po' di tempo per capire insomma dati, come sono andati i dati e gli studi. Davvero, davvero in bocca al lupo. Grazie a tutti voi e a risentirci molto volentieri. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Avrebbe 100 anni nel 2013. Stiamo parlando di un grande scienziato italiano che non c'è più, è morto un po' di tempo fa, Bruno Ponte Corvo. Ne parliamo appunto perché si ricorda il centenario della sua nascita. C'è appena terminato a Roma un convegno di 2 giorni dedicato a Bruno Ponte Corvo, una persona che quasi tutti descrivono come una persona molto mite, molto sensibile, molto semplice, che però ha avuto una vita avvolta in una grande avventura. La racconteremo in questa parte della nostra trasmissione e lo facciamo con Giuseppe Mussardo. Buonasera Mussardo. Buonasera. Fisico teorico alla SIS di Trieste e però anche impegnato da tempo in una attività documentaristica che in generale riguarda grandi storie di scienza, di scienziati, e lei Mussardo ha prodotto un documentario, Maksimovic, la storia di Bruno Ponte Corvo, che appunto è stato visto lì al convegno, ma poi dopo diremo anche che è a disposizione, insomma è un bel documentario che si può vedere facilmente su richiesta. Questo documentario ripercorre un po' tutti gli aspetti fondamentali della vita di Bruno Ponte Corvo, immagino, no? Sì, infatti diciamo, è un documentario che coniuga sia la parte biografica ma anche un grande affresco di storia, perché la vita di Bruno Ponte Corvo attraversa tutto il Novecento e ne vive tutti i drammi più violenti, diciamo. Certo. Cosa che ha anche rischiato e rischia di offuscare poi la sua grandezza di scienziato, perché era uno scienziato incredibilmente... Di primissimo livello, certo. Sì, incredibilmente bravo. E insomma, le vicende personali hanno rischiato veramente di offuscare anche questa parte. Bruno Ponte Corvo a un certo momento, nel 1950, fa un grande salto, decide di andare in Unione Sovietica. E certo, a quel punto tante cose della sua vita che avrebbero potuto prendere una direzione ne prendono un'altra. Io, Mussardo, ho avuto una breve conversazione con Giorgio Salvini, che è un simpatico signore di 93 anni. Quindi è un po' il decano dei fisici italiani. Grande fisico pure lui e, giusto appunto per la sua età, ebbe modo di incontrare Ponte Corvo. Sentiamo questa sua breve testimonianza. Incontrai quando già avevo fatto delle ricerche sui raggi cosmici. Sì, vento. Io l'ho incontrato appunto negli anni 49-50 la prima volta. Nel 1950 Ponte Corvo è in Italia e improvvisamente con tutta la sua famiglia parte, va in Svezia, sembra un viaggio normale, e invece da lì si trasferisce nell'Unione Sovietica. Lei ebbe modo di parlare poi con lui di questa sua scelta? Di questa sua scelta praticamente non parlai molto con lui. Mm-hmm. Era molto riservato su queste cose. Diceva poco delle ragioni di questa scelta. Non siamo davanti alla figura di un traditore o di una scelta, ma davanti a un uomo che tutta la vita ha cercato, diciamo, la verità, la coerenza, e ha sofferto per questo. Io non so parlare di una sua scelta politica. Lei dice che fu una scelta motivata solo dal punto di vista scientifico. E io credo che questa sia stata per lui sempre la parte preponderante. Ecco Mussardo, ha sentito. Giorgio Salvini, anche lui dà una risposta che prima sembra un po' certa e poi dopo dice, dicendo è stata una scelta di tipo scientifico, però poi dopo dice è stata la scelta preponderante, e di questa cosa si è discussa a lungo, ma io credo che ormai il quadro di come siano andate le cose sia abbastanza chiaro, no? Ma sicuramente l'interesse, la passione, l'amore per la ricerca ha giocato un ruolo sicuramente importante. Basti pensare che nel 50 i russi, o meglio insomma i sovietici all'epoca, disponevano del più grande acceleratore di particelle dell'epoca. I russi avevano fatto passi da gigante proprio nella scienza delle particelle elementari, che era la scienza venuta subito dopo gli sviluppi della bomba atomica, diciamo. No. Quindi, quindi nel 50 per molti scienziati effettivamente l'Unione Sovietica era un luogo dove si poteva fare grande scienza. però non c'era solo questo aspetto dentro, insomma, l'animo e la testa di Pontecorvo, no? Anzi, forse possiamo utilizzare una breve porzione del suo documentario dove Pontecorvo parla di una sua esperienza parigina. Sì, diciamo, lui viene dalla gloriosa scuola di Fermi. Sì. Era il più piccolo dei ragazzi di via Panisperna, così come vengono chiamati. È stato anche praticamente lui che ha scoperto i processi dei neutroni Lenz, il fenomeno principale alla base della fisica nucleare. Quindi anche, diciamo, ha avuto un ruolo determinantissimo, cruciale, perché il reattore cruciale è venuto fuori da lì praticamente. Esatto. E dopo questa esperienza però lui ha avuto la possibilità, perché aveva vinto una borsa di studio, di andare all'estero. E qui decide di andare a Parigi. Sentiamo. A Parigi avevo cominciato ad andare a qualche manifestazione, in questo influenzato da Joliot Curie e dal clima complessivo della città. Ricordo la grande folla raccolta intorno alle bandiere rosse, i bambini sulle spalle degli operai con il pugno alzato. Quando è arrivato a Parigi mio cugino Emilio Sereni, appena uscito dalle carceri fasciste, lì è cambiato tutto. Ho cominciato a vedere cose che prima non vedevo e soprattutto mi sono convinto che ognuno di noi doveva fare qualcosa per cambiare il mondo. Ho cominciato a guardare con interesse prima e con entusiasmo poi a quello che accadeva in Unione Sovietica, dove il proletariato era al potere e dove si andava costruendo l'uomo nuovo. Ecco, allora, Bruno Pontecorvo, soprattutto anche influenzato, no, da Emilio Sereni, che è stato un grosso esponente, insomma, dell'area comunista in quegli anni, lui viene preso dall'ideale comunista, anche dall'ideale proprio internazionale, e certo sa, come moltissimi, ben poche cose di quello che in realtà sta avvenendo in Unione Sovietica. Però per lui questo è come un flash, no? Sì, è una folgorazione, diciamo. Cioè, bisogna anche ricordare che lui veniva da una delle famiglie borghesi, diciamo, di più alta ricchezza in Italia, diciamo. Il padre aveva una ditta tessile fiorentissima, insomma, un ragazzo venuto su con le vacanze in Versilia piuttosto che al Circeo, tra una partita di tennis e un'altra, insomma, era abbastanza scanzonato. Però a Parigi accade qualcosa. A Parigi lui si rende conto che sta succedendo qualcosa di molto molto importante nel mondo. Ricordiamo che sono gli anni della guerra civile in Spagna e Parigi era un po' un luogo di riferimento, esatto, un modo di rifugio di molti della, e anche sì, di tanti antifascisti, incluso il cugino, che ha un ruolo determinante nella sua vita, diciamo. Emilio Sereni è la persona proprio più vicina a Bruno Pontecorvo, diciamo. E lì quindi cambia lui, la sua visione del mondo cambia radicalmente. Joliot Curie, che premio Nobel in chimica nel 1934, diventa il suo nuovo punto di riferimento, non più Enrico Fermi. E l'approccio dei due scienziati, tutti e due grandissimi, è completamente diverso nei confronti della società. Mentre Fermi vuole solo fare la sua fisica, non vuole avere problemi di altro tipo, per cui ogni altro problema, anche sociale, politico, è solo d'intralcio. Lo tiene lontano, sì, questo è noto nella storia biografica di Fermi, sì. Esatto, Joliot invece è convinto che la scienza deve entrare in maniera decisiva nello sviluppo sociale, politico. E qui c'è proprio una divaricazione tra i due, no, modi di vedere. Assolutamente. E quindi da quel momento Pontecorvo si porta appresso questo suo grande afflato ideale. Nel 1950 lui decide di passare dall'altra parte. Forse merita anche dire che in quegli anni, a volte quando si parla di storia si dice bisogna mettersi nelle condizioni di allora, e questo vale un po' sempre, però ci sono dei casi in cui questa operazione può essere fatta semplicemente. In questo caso invece è veramente un grande salto mentale che dobbiamo fare, perché in quegli anni lo scontro est, cioè lo scontro tra l'Occidente e, come diceva Churchill, l'oltrecortina, era veramente uno scontro epocale, e c'era realmente questa sensazione di un'imminente guerra nucleare. Infatti penso che sia difficilissimo per noi oggi, per chi non ha vissuto quegli anni, capire il clima proprio di sospetto, anche bieco, non so come dire, molto molto cioè bastava un nulla per alimentare i sospetti più pazzeschi. E in questo caso, nel caso di Pontecorvo, stiamo parlando anche di cose di una importanza strategica militare altissima. Ecco, però Mussardo, allora, a un certo momento lui va là, da quello che si può capire nell'arco di non molti anni, scopre questo retroscena, scopre che cosa è stato lo stalinismo, scopre cosa è questa Unione Sovietica, e da quel momento inizia un periodo, come dire, di lungo silenzio. Si dice che molti, appunto anche Salvini, no, gli chiedevano impressioni su questa sua scelta, lui ne parlava poco o niente. Forse, e qui c'è un altro passaggio, no, nel suo documentario, quello che ha raccontato di più lo ha raccontato in un'intervista a Miriam Mafai, credo a metà degli anni 70. Miriam Mafai era un esponente del Partito Comunista Italiano, e lei nel documentario riporta un pezzo di questa, molto breve, di questa intervista, che è quello conclusivo. Fra l'altro, Mussardo, questa testimonianza recitata di Pontecorvo è preceduta da una canzone. Sì, è una canzone composta da un caro amico di Bruno Pontecorvo in Russia. Era un popolare cantante di musica pop. Russa. Pop, sì, pop russa, ed è una canzone un po' canzonatoria, mi scusi il termine, su Pontecorvo, perché letteralmente dice come sarebbe bello se un giorno Pontecorvo riuscisse a prendere uno dei suoi neutrini per la collottola. Тропы еще в антимир не протоптаны, но как на фронте держись ты. Бомбардируем мы ядра протонами. Mi hanno chiesto molte volte se mi sono pentito della scelta fatta nell'estate del 50. Ci ho pensato molto a questa domanda. Puoi immaginare quanto ci ho pensato. Ma non riesco a dare una risposta. È più importante nella vita aver preso le decisioni giuste o essere stata una persona per bene? Io resto della mia opinione. Credo di aver commesso molti errori, ma di essere stato sempre una persona per bene. Ecco Mussardo, qui in conclusione, è vero che lui ne parlava poco o niente, però con questa sua testimonianza in realtà una risposta la dà, perché alla questione non so se ho fatto la scelta giusta, però l'importante è essere una persona per bene. Essere una persona per bene vuol dire che ha fatto un errore, ma lui sostanzialmente si sentiva con un rapporto onesto con se stesso, no? Sì, sì, di fatto è la vicenda si può riassumere proprio in queste parole, no? Cioè anche lui stesso, più gli anni sono passati, più si è reso conto veramente di aver fatto una scelta sbagliata. Dico agli ascoltatori e ascoltatrici che andando al nostro sito www.moebiusonline.eu potranno avere le indicazioni su come recuperare questo documentario e utilizzarlo in vari momenti che possono pensare siano interessanti per raccontare questa storia. Giuseppe Mussardo, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, arrivederci. Allora, non c'è niente da fare, dovete andare al nostro sito www.moebiusonline.eu e vedrete nella home page che c'è una sezioncina nella quale dovete rispondere a una domanda, e ci sono diverse possibilità, che fa parte di queste attività che noi stiamo facendo da qualche tempo, lo sapete voi che ci ascoltate, che riguardano le nanotecnologie. Siamo all'interno di un altro progetto europeo sulle nanotecnologie, Nano Opinion, e ogni tanto andiamo a chiedere al pubblico, delle audience, che cosa ne pensa di qualcosa che riguarda le nanotecnologie. Allora, per favore, è un dato molto importante quello che riusciamo a raccogliere, vi manderò altre volte a trovare, insomma, a darci queste risposte. È una cosa molto veloce, però andateci, è importante, www.moebiusonline.eu, e in home page trovate tutto. Grazie. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sentite questo brano, si intitola Primavera accesa. ed è eseguito dagli Irony of Fate, l'ironia della fede, è un gruppo di ricercatori di Milano e qui ci siamo, la notte dei ricercatori, forse una, ma invece sono tantissime e per fortuna, anzi questo come si dice è il suo bello, si svolgono in tante città italiane, dalle più grandi alle più piccole, non possiamo assolutamente parlarvi di tutte perché sono veramente tante, con tanti programmi, andate in rete e digitate la notte dei ricercatori e trovate quella che a voi è più vicina. Ma perché vi facciamo sentire questo brano? Beh, perché fra le tante notte dei ricercatori ce n'è una a Milano, c'è un'iniziativa all'interno della notte dei ricercatori a Milano che è il 27 settembre, questa iniziativa si chiama Meet Me Tonight ed è un concorso aperto però a gruppi di gente che fa ricerca e che suona, che hanno fatto delle band, gruppi che possono arrivare da tutta Italia, però fate in fretta per iscrivervi a questo festival, c'è anche una premiazione, poi magari quello che vince lo mandiamo pure in onda, fate in fretta a iscrivervi, c'è un sito www.meetmetonight, cioè incontrami questa notte.it, www.meetmetonight.it e questo è tutto. Che cos'è l'altoparlante? È quello strumento che sta usando probabilmente quelli che ci stanno ascoltando, forse, esatto. No? Ecco. Ma è un grande strumento nella storia, nella politica. Nessuno forse ci aveva mai pensato. No. E un ascoltatore ci ha mandato una domanda un po' buffa, anche molto molto interessante, che abbiamo voluto proprio approfondire. Allora, diciamo che diamo la parola a Vanni, che pone la sua domanda, e poi ovviamente all'esperto che risponderà. Che abbiamo chiamato. Allora, l'altoparlante è stato inventato nel 1911. Ora io mi chiedo e vi chiedo, come facevano prima di questa data i grandi condottieri politici a farsi sentire e anche a poi a convincere le loro armate, i loro popoli? Grazie. Buonasera, Peppino Ortoleva. Buonasera. Lei insegna storia e teoria dei media all'Università di Torino e prima, per preparare questa intervista, lei ci diceva anche che proprio su questo tema, cioè gli strumenti di comunicazione, le tecnologie di comunicazione, come l'altoparlante, ha fatto addirittura delle porzioni del suo corso. Esattamente. Ma è vero che l'altoparlante intanto viene inventato nel 1911? No, non è vero, nel senso che, come spesso succede, si tratta di tecnologie che hanno avuto una lunga incubazione. Allora, il microfono viene inventato da Edison, anche quello, intorno al 1880, come parte del lavoro sul telefono che Edison sta facendo per fare concorrenza a Bell quando viene introdotto il telefono. Quindi il microfono viene inventato almeno 30 anni prima. Poi, man mano, vengono introdotti esperimenti e tentativi che porteranno poi effettivamente subito prima della Prima Guerra Mondiale a degli altoparlanti effettivamente funzionanti. Che sono quegli strumenti per parlare a tante persone, per esempio in una piazza, in un grande raduno. Con l'altoparlante si riesce a modulare la voce e si riesce quindi a raggiungere tutto un sistema di enfasi, no? Di sonorità che sono fondamentali per questa, come dire, capacità di creare convincimento politico, entusiasmo e via dicendo. Allora, diciamo subito, il sistema tecnologico che lega microfono altoparlante è un sistema di amplificazione, come si capisce dalla parola, sembrerebbe un fatto banale, quantitativo. La voce delle persone o anche i suoni di altro tipo, compresi quelli musicali, vengono amplificati, quindi il volume può essere alzato. Intanto il volume può essere alzato, ma può essere anche gestito, cioè l'altoparlante può amplificare, ma può anche in certi momenti abbassare. Tornando alla domanda di Vanni, ecco, dal punto di vista più politico, sociale, il ruolo dell'altoparlante ci sembra chiarissimo. E allora, appunto, la domanda è legittima. Prima, che cosa succedeva? Quali erano gli strumenti di comunicazione che convincevano, amplificavano l'idea del condottiero, del politico? Prima di tutto, parlare forte nelle piazze è antico come l'oratoria, cioè sempre i politici, i condottieri, eccetera, eccetera, i leader hanno parlato nelle piazze, hanno parlato nelle piazze con la loro voce, che raggiungeva naturalmente non le grandi masse, ma raggiungeva alcune centinaia, migliaia di persone. La retorica antica prevedeva nei suoi trattati non semplicemente le tecniche di persuasione sul piano dei contenuti, ma anche tecniche, per esempio, per rafforzare la voce. Il parlare in piazza è sempre esistito. Prima dell'altoparlante era una quantità più ridotta. Per un lungo periodo si poteva parlare comunque a centinaia di persone che avrebbero poi diffuso col passaparola, eccetera, quello che l'oratore aveva detto. Ma si faceva semplicemente informazione? No. Si faceva persuasione. Il discorso di Pericle riportati dai grandi storici o i grandi discorsi di Cesare, i famosi discorsi di Bruto e Antonio nel Giulio Cesare di Shakespeare, riportato adesso al cinema dai fratelli italiani, sono discorsi fatti nelle piazze con una bella voce potente dai due leader contrapposti. Quindi non si faceva solo informazione, si faceva persuasione. E come? Solo che lo si faceva a un numero limitato di persone. È questo che intendevo dire, cioè non poteva essere usato per fare un lavoro di comunicazione politica e culturale a grandi masse. No? Allora, come le grandi masse sono diventate politicamente importanti con l'Ottocento. Prima dell'Ottocento le grandi masse contavano fino a un certo punto, perché la leadership politica si rivolgeva a circoli abbastanza elitari che contavano politicamente, anche prima dei sistemi elettorali moderni. Con l'Ottocento arrivano i sistemi elettorali universali, a suffragio universale, e arriva il socialismo e quindi una politica che parla alle masse. Come parlava la politica alle masse prima dell'altoparlante? Parlava attraverso strumenti di altro genere, per esempio il corteo, più o meno strutturato, più o meno ordinato a livello quasi militare, una sorta di parata, possiamo immaginarla così. Le parate, i cortei erano una forma di comunicazione politica assolutamente di massa, in cui tra l'altro c'erano i grandi striscioni, c'erano le bandiere con il loro valore simbolico e c'erano le persone che ripetevano gli slogan e quindi le amplificavano con la forza di decine e centinaia di voci, cosa che si è continuato a fare fino a tempi molto recenti. Sì. Quindi erano le molte voci che amplificavano al posto dell'una voce amplificata tecnologicamente. E il messaggio fascinoso politico era lasciato più a degli elementi scenografici. Le dico questo e le chiedo questo perché so che, per esempio, lei ha studiato i discorsi di Hitler e lì invece la possibilità di usare mille timbri di voce grazie all'altoparlante fu fondamentale. Assolutamente, ma non solo per Hitler. Diciamo questo: che cosa succede col Novecento? Col Novecento è possibile collegare l'uso delle grandi parate, che continua a esserci, perché sì, i nazisti usavano abbondantemente anche le grandi parate, sì. Con l'uso della voce del singolo, che poteva arrivare a una piazza immensa attraverso l'amplificatore e poteva anche arrivare nelle case delle persone attraverso la radio, non dimentichiamoci questo aspetto. Attraverso l'amplificatore arrivava nelle piazze una voce centralizzata, diciamo così, che, e questa è la potenza dell'amplificatore, attenzione, che da una parte parla potentemente a tutti e quindi con una forza che sembra appunto una forza quasi sovrumana. E tra l'altro con un piccolo effetto che secondo me non va sottovalutato: quando una piazza è piena di altoparlanti c'è un effetto di eco, per cui si sente la voce per esempio di Mussolini che dice l'ora delle decisioni irrevocabili, come nel famoso discorso del 10 giugno 1940, e la piazza non sente solo la voce di Mussolini che lo dice, ma sente anche l'eco sì, di questa voce sì. Quindi un timbro più solenne quasi che è più solenne da una parte e quasi più magico, però dall'altra parte non mi stancherò mai di sottolineare che l'altoparlante ha anche due altre funzioni fondamentali. La prima è che la voce arriva a tutti, ma se l'oratore sa il fatto suo, arriva nell'orecchio di ciascuno. Cioè, per essere più chiaro, nei discorsi di Mussolini e di Hitler in particolare, che alternava toni violentissimi con toni molto persuasivi, che sentiamo molto meno. I documentari su Hitler normalmente non ci fanno sentire l'Hitler che parla piano, dolcemente, che addirittura piange al microfono, come è successo, e così via, che quindi era quasi intimo. Quindi lei sta dicendo che, per esempio, Hitler era capace, nei suoi toni violenti, di parlare a una porzione del suo pubblico, e con altri toni invece andava a prendere altri pezzi della sua audience, magari. Quindi riusciva a parlare attenzioni e predisposizioni diverse. A emozioni diverse, quindi parlando a emozioni diverse poteva parlare a una stessa persona pescando dentro di lui delle cose differenti, ma lo stesso faceva Roosevelt alla radio. Roosevelt non parlava in pubblico, anche perché essendo poliomielitico non si faceva vedere molto in pubblico, ma alla radio, se sentiamo i discorsi di Roosevelt alla radio, sentiamo anche in quelli l'alternarsi di toni estremamente soft e di toni estremamente duri. Permettetemi però di aggiungere un'altra cosa. Oltre alla questione dell'eco, c'è un fatto fondamentale che è, per esempio, presente nell'uso degli altoparlanti, degli amplificatori nei concerti rock contemporanei. Ah beh, lì ci sono tutti gli strumenti. Ognuno lì, ha, certo, la sua amplificazione. È quasi il ruolo dell'orchestra, come dire. Ecco, però, come ancora una volta io cerco sempre di spiegare, se voi andate a un concerto rock, la musica non vi arriva solo alle orecchie. La musica vi arriva nelle gambe. Ah, sì, certo. Perché sì. L'amplificatore fa vibrare il terreno, oltre a amplificare un suono. Sì, sì, ma anche la pelle, no? Il cuore. Ecco, quindi c'è un effetto multisensoriale dell'amplificazione, che viene spesso sottovalutato, e che è vero, che era vero anche per i grandi oratori degli anni 30. Cioè parlare all'orecchio delle persone col discorso, diciamo col contenuto, parlare all'orecchio delle persone con i sentimenti che dicevo prima, l'intimità alternata con la violenza e così via, parlare anche all'orecchio con questo effetto quasi magico dell'eco, e poi anche parlare al corpo intero delle persone con questo, con la vibrazione fisica proprio, esatto, con questa sorta di tamburo che l'altoparlante rappresenta. Grazie professore, davvero una bella lezione. Grazie a voi. di altoparlantismo politico. grazie mille, buon lavoro davvero. Buon lavoro a Toledo, grazie, arrivederci. Arrivederci. Beh, anche noi qui ci abbiamo il microfono. Tu potresti però parlare con la F, per esempio. Sì, o con la R moscia. La R moscia va in onda. Però anche per noi sono strumenti, diciamo, fondamentali. Se no non potreste ascoltarci in questo momento, ascoltare i nostri saluti, purtroppo. Abbiamo finito. Buona settimana a tutti e a tutte. Ci vediamo qui fra 7 giorni.